Fulminati in azienda. Allora, Paragone, ti ho convocato perché, come sai, sei il mio consulente preferito. Ti ringrazio, Marco. È sempre un enorme piacere essere al servizio di un leader straordinario come te. Senti, oggi io ho un bisogno, te lo dico chiaro. Voglio riorganizzare la nostra filiale americana. E tu cosa pensi di fare? Ma io la voglio chiudere, proprio del tutto, licenziare tutti e così non spendiamo niente. Sarai d'accordo, immagino. No, Marco, non sono d'accordo. Come no? Penso che la filiale americana vada tenuta e anzi, in questo momento dovresti assumere qualche persona in più, magari della comunità ispanica. Ma cosa c'entra? Intanto, ma cosa dici? Ma poi cosa c'entrano gli ispanici? Ascoltami bene, Paragone, ti ho detto che voglio chiudere la filiale e buttare via le chiavi, chiaro? E io da consulente ti dico che secondo me fai un errore, perché dalle mie analisi si evince che la filiale americana è linfa per questa azienda. Uè, Paragone, ma forse non ci siamo capiti. Ma chi è che è il cliente? Tu o io? Tu o io? Chi è il cliente? Lo sai perché ti chiamo da anni, lo sai? Questa volta, Marco, la stampella del consulente non c'è. Scusami. Scusami. Uè, NCS, Paragone, NCS, non ci siamo. Ma io lo sai che cosa faccio del tuo contrattino di consulenza? Ma lo sai? Coriandoli ne faccio. Coriandoli. Allora, buongiorno Centrifuga, buongiorno Paragone. Buongiorno. Ho deciso di darti, caro Paragone, un'altra opportunità. Allora, ho chiamato qui però Centrifuga come testimone del nostro incontro. Ecco, una testimonianza utilissima. Quale progetto desideri affidarmi, Marco? Ecco, allora io voglio cambiare i fornitori, così posso strangolarli e avere prezzi più bassi, chiaro? E io non sono d'accordo. Dalle mie analisi, anzi, dovresti valorizzare il rapporto con i fornitori storici, un rapporto strategico. Ma Centrifuga, ma senti che cosa dice Paragone? Incredibile. Ma come si permette? Ma il consulente, cioè, mi consiglia delle cose diverse da quelle che dico io. È incredibile. E allora che cosa fai? Mi mandi a casa? Sai cosa faccio del biglietto da visita di Marco sul pezzo? Ne faccio coriandoli. A capo, incredibile. Incredibile. La prima volta Paragone ha espresso un'idea diversa da tua. Ma io lo so perché. E perché? Perché? Perché non è lui. È un sosia de Paragone, hai capito? Ho capito che non può essere il nostro consulente, perché è il nostro, non ti dice mai cosa pensa veramente. È un sosia, allora è per questo che è un sosia. Facciamo così: domani richiamo io il consulente sosia, lo affronto, gli afferro la cravatta di seta e gli faccio a coriandoli. Ecco qua. Oh, zac. Bravo, c'è. Allora, Paragone, buongiorno. Buongiorno. Paragone, se te dico che voglio dipingere queste pareti da azienda de bianco, tu che mi dici? Io da consulente ti dico che devi farle nere. Tu dici così perché non sei il vero consulente, sei un sosia. T'avemo sgamato, fatte levare la maschera. È il vero consulente, dà sempre ragione all'azienda che gli chiede un consiglio. Ma quale sosia, Centrifuga? Perché sei un amico, ti rivelo la verità. Una volta l'anno, noi consulenti facciamo finta di avere opinioni diverse da quelle dei clienti, perché sennò non siamo più credibili. Lo chiamiamo il buco nero. E perché buco nero? Perché naturalmente è una settimana in cui ci divertiamo tanto, ma non fatturiamo niente. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.